vedrei all'ombra nel cortile, con i piedi nudi per scappare, come un scrigno che non vuoi aprire, pronti i ricordi che riescono a volare, ti piace da aprire. Vedrai nel calco di un guanciale, come nel vapore di un profumo, e le mani nude che provano a cercare, come tra coriandoli di un altro carnevale, ti piace ad aprire. In quel libro che vive senza età, con il treno che lo scriverà, in quel libro che vive senza età, con quel treno che nel sole della sera, quando il tramonto fa un inchino, quando tra le foglie la carezza schiude, quando in mezzo ai fiori si apre il tuo, ti piace d'aprile. Ti vedrò fra i seni della luna, come un'eclisse addormentata, nuda come il vento, sola come il mare, quando il sale scivola prima di parlare, ti piace ad aprire. In quel libro che vive senza età, con il treno che lo scriverà, in quel libro che